E torniamo a parlare. Che noiosi che siamo. Sempre eh? Di intercettazioni. Sempre di intercettazioni. Siamo monotoni. Siamo abbastanza monotoni. Però c'è da dire che le intercettazioni si fanno in un bel numero di salse. Nel senso che abbiamo parlato di captatori, ovvero di dispositivi installati sui device finali. Abbiamo parlato di IMSI catcher, che sono, sai, quando qualcuno si mette con l'antennozzo a ricevere le tue chiamate invece che l'antenna ufficiale. E c'è anche un altro modo, quello più vecchio, per intercettare le telecomunicazioni, che è passare direttamente dal tuo operatore nel centro di scambio e registrarle, ascoltarle, mandarle su altri numeri. L'approfondimento di oggi è su questo, su cui c'è molto da dire, soprattutto molto da raccontare, perché è la tecnica più vecchia di tutte, cioè, insomma, tanta storia dietro. Ci sono aneddoti, tanti aneddoti. Tanti aneddoti, tante spy story, anche belle, belle piene. E partiamo solo da, diciamo, una base per spiegare più o meno cosa succede quando facciamo una telefonata tendenzialmente col cellulare, perché ormai sì, si intercettano i telefoni fissi, ma la maggior parte delle persone neanche ce l'ha il telefono fisso, usa solo internet. Poi adesso i telefoni fissi con la fibra sono VoIP, quindi diciamo le intercettazioni classiche sui telefoni fissi non sono più molto rilevanti. Parliamo invece di cellulari, che è quello che tutti abbiamo, insomma, che è il mezzo più usato. Cosa succede? Come dicevamo prima, quando abbiamo citato la notizia di Huawei, ci sono degli apparati di rete che si occupano di ricevere, diciamo, il primo segnale della chiamata. Le cosiddette BTS sono le stazioni che vediamo sui tetti in città, sulle colline, quelle che devono stare in alto e su cui il nostro segnale deve prendere. Queste stazioni le fanno principalmente quattro grandi aziende, che sono Huawei, che fa le più economiche, sono la maggior parte di quelle che ci sono in Italia, poi le fa Nokia, e le fa Alcatel Lucent, e in piccola parte li fa anche Ericsson, anche se Ericsson si occupa poi più di un'altra parte. Queste BTS ovviamente devono essere distribuite sul territorio per garantire la copertura del segnale telefonico, e diciamo ogni regione, diciamo ogni zona di BTS viene gestita da un'altra unità di controllo che si chiama BSC. La BSC, che è di nuovo un componente proprietario, immaginatevi proprio un server a cui sono collegate tutte le altre BTS, le fa tendenzialmente lo stesso operatore, che è la stessa compagnia che produce anche l'antenna finale, perché sono interscambiabili ma non troppo come in tutti gli standard proprietari. E queste BSC, che sono ovviamente di meno delle BTS perché ne controllano un sottogruppo, si occupano poi di forwardare il traffico telefonico all'MSC. L'MSC è il cosiddetto centro di switching, che è dove appunto le chiamate vengono instradate verso i centri di switching di destinazione, quindi verso gli altri operatori, verso i gateway per l'estero, eccetera. Di centri di switching sono molto pochi, nel senso si parla magari di uno per il nord-ovest, uno per il nord-est, uno del centro, e tendenzialmente ogni operatore ha il suo, che poi si deve poter interfacciare con quello degli altri. Ricordiamo che da quando c'è la portabilità dei numeri c'è una cosa che si chiama HLR, ed è l'Home Location Registry, che è dove le numerazioni sono associate alle persone. Tendenzialmente è una cosa statale gestita dal Ministero delle Telecomunicazioni, che poi fornisce delle PA ai vari operatori per gestire la portabilità dei numeri e l'instradamento delle chiamate. Questo è il pippozzo tecnico iniziale per capire due robe. Ora, ovviamente il punto più bello dove intercettare telecomunicazioni è l'MSC. L'MSC perché è dove la maggior parte del traffico passa, per paesi piccoli probabilmente anche tutto da 1 o 2. Se andate a cercare Ericsson MSC vi viene fuori che è praticamente un armadio pieno di server con del software proprietario, che dopo vedremo è basato su Solaris, quindi c'è sempre l'inizio open source o la tecnologia antica anche in queste cose. Ora, cosa succede? Noi adesso ci occuperemo, visto che poi le nostre storie si riferiscono a quello, di MSC Ericsson. Ericsson ovviamente vende un modulo per fare le intercettazioni tendenzialmente lo chiamano proprio, adesso ha proprio legal nel nome sta roba, perché in teoria è pensato per gli usi previsti dalla legge, diciamo. Questo modulo permette, adesso nelle versioni più vecchie, partiamo dal 2004-2005, tendenzialmente di replicare le chiamate o di registrarle. Replicarle vuol dire copiare il flusso voce verso un altro numero in modo che qualcuno possa ascoltare. Ora, noi sappiamo che comunque le intercettazioni in Italia sono abbastanza normate. Ci sono come dire, i casi in cui possono essere fatte, e poi ovviamente, siccome sono dati personali e sono anche dati giudiziari, ci sono determinati modi in cui dovrebbero venire gestite. Bisognerebbe poter sapere chi l'ha richiesta, chi l'ha salvata, dovrebbe essere cifrata. Ci sono tutta una serie di cose che dopo vedremo sono belle sulla carta, ma poi in pratica sono state realizzate in modo dubbio. Cosa succede? Che a queste intercettazioni, tendenzialmente, una volta che sono fatte e sono registrate, dovrebbero andare al pubblico ministero, comunque a chi si occupa delle indagini. Però prima di arrivarci, come dire, ci sono tutta una serie di persone intermedie, cioè chi tra l'altro persone intermedie, come dire, direttamente implicate nelle intercettazioni, oppure tecnici generici, cioè chi si occupa di amministrare l'MSC, che magari non si occupa delle intercettazioni, però ha accesso root sul, su questo dispositivo, quindi ipoteticamente ci può accedere. Cioè, la possibilità tecnica di farlo. Poi, diciamo, è tecnologia proprietaria molto, molto non complicata, ma poco documentata, su cui deve uno aver speso una grande quantità di tempo, e vi assicuro che uno non spende una grande quantità di tempo su quell'oggetto per passione. Cioè, proprio, proprio no. Comunque, oltre alla persona che amministra questo server, che tendenzialmente è una persona interna dell'operatore, però si avvale anche di consulenti esterni, che possono essere di altre aziende, ma tendenzialmente sono del produttore. Quindi accesso a questa roba c'era l'amministratore dell'azienda, uno o più tecnici di Ericsson, dopodiché c'è una persona che si occupa di inserire i dati delle intercettazioni, ovvero di selezionare i numeri che vengono intercettati e selezionare dove vengono replicate le chiamate, e c'è anche una persona che si occupa ovviamente di gestire la comunicazione tra i magistrati e chi fa poi la parte tecnica. E poi c'è anche la questione che queste intercettazioni, se sono registrate, devono essere consegnate in qualche modo, quindi passano di nuovo di mano. Anche conservate. Esatto, questo per dirvi che sì, la legge prevede dei requisiti stretti, però c'è un fattore umano molto ampio in mezzo, e quindi fidati devono essere tutti gli amministratori, perché basta uno che non lo sia, chi gestisce il flusso di comunicazione, le due parti delle comunicazioni e un sacco di altre persone. In tutto questo, ovviamente, lo vedremo dopo, c'è anche la possibilità che io, attaccante esterno, hackeri una di queste persone o hackeri direttamente l'MSC, perché come dicevo prima è basato su Solaris, e da persona completamente esterna possa accedere alle telecomunicazioni. Un po' di anni fa qualcuno vi avrebbe detto che magari è fantascienza, improbabile, sono informazioni protettissime, è difficilissimo. In realtà, come dire, la parte più difficile dal mio punto di vista non è accedervi, ma poi capire come funzionano queste robe proprietarie, e questo lo vedremo dopo. Questo vi posso per dirvi che un po' come funziona, un po' come funzionano le cose, e un po' per dirvi che noi in Italia, di casi in cui persone coinvolte nel, diciamo, nella gestione tecnica delle intercettazioni hanno abusato della loro posizione, ne abbiamo tanti. Il più famoso, che probabilmente gli ascoltatori anche un po' più datati di me conosceranno meglio di me, io lo cito qui sotto la pagina Wikipedia, è lo scandalo Telecom Sismi, in cui praticamente le indagini sono partite dal fatto che la Coca-Cola Italia aveva chiesto di spiare un loro manager, e per farlo si era rivolta a un'agenzia di investigazioni private, che però in qualche modo aveva ottenuto delle intercettazioni. Queste intercettazioni le aveva ottenute grazie all'ex capo della security di Telecom, che praticamente aveva a sua disposizione accesso a tutto, ma come dire, dirlo così è riduttivo, perché al suo servizio, o comunque alle sue dipendenze, aveva il Tiger Team, che sono persone che in teoria si occupano della sicurezza interna, si occupano di testare tutto, che erano in maggior parte suoi collaboratori e che avevano praticamente costruito un loro sistema interno per costruire dossier su personalità politiche per poi rivenderli, ma anche giornalisti e calciatori, rivenderli, conoscerne segreti, avere potere sostanzialmente. Queste persone delle intercettazioni hanno abusato ampiamente, e tra l'altro c'è stato anche... Detto così sembra che lo scandalo abbia riguardato solo persone interne a Telecom, ma in realtà in quell'ambito è stato arrestato anche il numero 2 del Sismi, che adesso non esiste più e chiamiamo AISI, ma che comunque allora erano i servizi segreti interni, e che all'epoca era Marco Mancini, e anche numerose persone di Carabinieri e Guardia di Finanza. Quindi cos'era successo? Che praticamente i tecnici di Telecom avevano costruito tutto un apparato e tutto un sistema per cui fornivano intercettazioni abusive su persone su cui non c'era nessun interesse giudiziario per il loro profitto e per manovre politiche. Questa cosa è molto più intricata di così, io l'ho semplificata tantissimo, anche perché poi i vari governi, in particolare il governo Berlusconi 4, ha secretato questa storia, cioè ha deciso che gli atti di tribunale, alcune scoperte, non sarebbero state pubblicate. I tecnici di Telecom si sono più o meno tutti attaccati a vicenda, nel senso che ognuno ha fatto dichiarazioni dicendo che gliel'aveva ordinato qualcun altro. Comunque dei colpevoli sono stati trovati, di fatto la cosa è successa, e diciamo che allora era il 2004, mi sembra che la sentenza sia poi stata nel 2009. Intanto, diciamo, anche la normativa ha cercato di adeguarsi al fatto che anche gli amministratori di sistema, comunque chi gestisce questi servizi, deve essere tracciabile nelle sue operazioni. E, abbiamo un intervento? No? Ok. No, solo una cosa, ricordavo che... Sì, agli arbori Grillo uscì sui giornali perché richiese tipo le sue bobine, perché scoprì di essere tra gli intercettati nello scandalo Telecom Serbia. E mi ricordo che fece questa specie di causa, che andò in tribunale richiedendo: almeno ridatemi le mie bobine, voglio risentire quello che ho detto in questi anni. È interessante. Sarebbe da vedere, cioè, se è possibile. Purtroppo su questa cosa bisognerebbe dedicare una puntata intera. Io non sono il maggiore esperto, quindi se poi ci saranno domande, approfondimenti, o qualcuno vuole intervenire, è apprezzato. Molto probabilmente su solo questa questione dello scandalo Telecom Sismi potremmo addirittura pensare di fare un approfondimento a sé stante di una puntata da sola. Magari ci documenteremo, e se è richiesto ci si può valutare. Anche se qualcuno vuole partecipare alla creazione di questa eventuale puntata, ovviamente scriveteci e contattateci. Questa era una panoramica molto veloce, per poi passare agli eventi successivi. Gli eventi successivi: c'è stato poi nel 2009 uno scandalo di Wind, in cui praticamente di nuovo il direttore di sicurezza, che è stato arrestato, poi ci sono delle notizie da fonti dubbie che dicono che sia stato assolto, purtroppo i giornali non hanno dato un grande follow up di questa storia, in cui di nuovo il direttore di sicurezza di Wind si gestiva le intercettazioni come gli pareva, intercettava chi voleva, prendeva richieste da amici, insomma esponenti di, come dire, polizia o cosa, registrava, mandava, sostanzialmente tutta la questione era a sua intera discrezione. Ovviamente Wind si è dichiarata parte lesa, ha fatto causa a questa persona, comunque è stata multata per altri motivi, però cioè, questo non per dirvi che Wind e Telecom sono direttamente colpevoli, sono in parte colpevoli perché ci dovrebbero essere delle misure di sicurezza che prevengono queste cose, ma per dirvi che nella catena di fiducia umana che spiegavo prima ci possono essere mille persone in cattiva fede. E questo ci tenevo a leggervi, perché ovviamente dopo che è di nuovo successo lo scandalo, cosa è successo? È entrato il garante della privacy, e il garante della privacy ha deciso che avrebbe fatto un audit, cioè un controllo di come venivano gestite le intercettazioni ai maggiori operatori delle comunicazioni. Questo è interessante, infatti come al solito vi ricordo che pubblichiamo poi i link, se volete approfondire anche voi, sul sito della club underscore autistici.org/underscore. C'è questo appunto rapporto del 2008 di Wind che dice che ha fatto del garante della privacy, che ha fatto questo audit di Wind, in cui cita tra l'altro anche i nomi delle macchine, i nomi delle istanze. Vi dico ad esempio: l'istanza Magiport contiene i dati comuni a tutti gli ambiti funzionali, anagrafica, traffico e intercettazione. L'istanza Maginter riporta i dati relativi a email, target, procedimento penale. L'istanza Magiserver, che è esclusivamente configurazioni inerenti al sistema, non dati di traffico. L'istanza Anaprod contiene le anagrafiche dei clienti Wind Infostrada. L'istanza Magiprod è il database online del traffico. Cosa succede? Che controllano questi sistemi. Questi sistemi sono poi, si parla di macchine Linux, di macchine X, comunque di sistemi classici, per cui si parla di SSH, firewall, cose comuni. Non immaginatevi chissà quale sistema super complicato, perché si interfacciano tanti software proprietari, ma non complicato di per sé nella gestione di rete. E vi cito i punti: l'assenza di meccanismi di strong authentication per l'accesso ai sistemi. Questi sono i punti contestati a Wind. Nei sistemi di intercettazione telematica non risultano presenti meccanismi di autenticazione forte. Inoltre, in relazione al sistema di estrazione di tabulati di traffico telefonico telematico, solo alcune utenze sono già sottoposte a strong authentication. Sostanzialmente, su questa roba ci si logga con nome utente password, non c'è two factor, non c'è niente. Per cui se tu rubi il nome utente password e sei in rete in intranet, boh, ti pigli i dati. Punto 1. L'uso condiviso di password per l'apertura dei tabulati del traffico. La password di protezione dei file compressi contenuti tabulati inviati all'autorità giudiziaria è comune per tutti i destinatari e viene modificata periodicamente. Quindi cosa succede? Che quando qualcuno chiede le intercettazioni, loro gli mandano uno zip via email che ha sempre la stessa password. Questo per parafrasare... No, no, ma cioè, è proprio la parafrasi di quello che succede. Sì. Questa è la prassi di sicurezza. La mancanza del tracciamento delle singole operazioni per il sistema di intercettazioni e l'assenza di ogni tracciamento per il sistema di intercettazione di telefonia fissa. Quindi cosa succede? Che una persona può richiedere un'intercettazione e loro dopo non possono sapere chi è stato. Questo, come dire, per la trasparenza è fantastico. L'assenza di strumenti di cifratura dei dati giudiziari, questo vuol dire che i dati li buttano su un computer, una share o cosa così come sono, e se qualcuno accede a questa share, questo computer se li prende. Parliamo del 2008, quindi queste cose saranno ovviamente cambiate, però si è spera. Per... Dai, in parte si spera, comunque c'è anche una sanzione economica per sta roba. Andiamo avanti. La mancata previsione di un limite temporale di conservazione dei dati relativi alle richieste di intercettazione. Quindi i tuoi dati, ma anche i dati, come dire, dei magistrati o cos'è, stanno lì per sempre. L'assenza di meccanismi di verifica della corrispondenza fra dati inseriti sul sistema di protocollazione e quelli contenuti sui sistemi di attivazione e intercettazione. Quindi ti può mandare un atto con dei numeri e tu dopo puoi fare quello che vuoi e non c'è nessun controllo incrociato di questa roba. L'utilizzo di email insicuro per l'invio di comunicazioni con i fornitori di outsourcing, anche per i dati relativi alle intercettazioni. Ovviamente anche in questo campo, ovvero quello delle intercettazioni, è pieno di consulenti che poi sono sempre più o meno delle stesse aziende. E ovviamente, come si parla di queste informazioni? Ci si parla via email, in chiaro, tranquillamente, tutto normale. Quindi aggiungiamo ancora un altro anello nella catena di fiducia umana, che è il consulente, il server di posta del consulente. Sì, probabilmente anche il server di posta non del consulente, ma dell'altro che di solito... Certo, cioè dell'operatore, il server di colpa della procura. Questo per dirvi che la superficie di attacco è immensa. È immensa. L'inserimento manuale della selezione del punto d'ascolto. Qui si dice che c'è una persona, un omino, che si occupa di copiare il numero su cui replicare le telefonate. Quindi, cioè, se lui digita male... Che è plausibile, nel senso, sì, metti che il tuo lavoro è farlo 8 ore al giorno, magari ne devi digitare 100 in un giorno, voglio dire, può succedere, magari le tue chiamate vengono replicate a tuo cugino invece che alla guardia di finanza, chi lo sa. E poi le vulnerabilità dei sistemi server e flussi di trasmissione dati non sono sicuri. Su molti sistemi server utilizzati nell'area magistratura per particolari elaborazioni sono state riscontrate carenze di configurazione e prassi d'uso inidonee. Per esempio, è emerso a livello di sistemi operativi l'utilizzo di protocolli di comunicazione non cifrati per la connessione, anche interattiva. Cosa vuol dire? Che usavano Telnet al posto di SSH. A livello di banche dati, l'utilizzo di protocolli di comunicazione non cifrati per la connessione a database Oracle dell'area magistratura, che vuol dire sostanzialmente che facevano la connessione ODBC standard al database Oracle. Questo ai non tecnici sarà piangere. Sembrato un pippozzo noioso, però capite che c'è di 10 punti, c'è da piangere, ed è, diciamo, la parte più critica delle informazioni dell'operatore. Immaginatevi cosa non è così critico come gestito. Cioè, proprio... coi piedi. Questo... Vabbè, fondamentalmente comunque considerate che si parla anche di costi, nel senso che risparmiare anche su queste robe è fondamentale quando si parla di grandi, esatto, numeri. Esatto. Ricordiamo che vedete... stiamo parlando di un dato che citavamo un paio di puntate fa qui su Stacca Stacca, che dal 2000 ad 12 le intercettazioni telefoniche sono sempre sopra le 100.000 unità annue, quindi sì, sono tanti, cioè i numeri sono elevati. E poi soprattutto consideriamo anche come in ogni step della filiera ci sia sempre un consulente esterno, un tecnico che viene da fuori, un consulente di un'altra azienda. Anche perché, come dire, c'è chi Ericsson, che magari gli ha fatto il modulo per le intercettazioni, poi c'è il sistema integrator che si occupa di far parlare il modulo delle intercettazioni col database dell'anagrafica, poi c'è il consulente di Accenture che ha fatto l'applicazione web dove l'omino inserisce i numerini, poi c'è un'altra persona che si è occupata di solo gestire, che ne so, gli alert per la magistratura di quando ci sono nuove comunicazioni e tutto quanto. Tutte queste persone ovviamente hanno avuto accesso ai sistemi, hanno prodotto del software. Se si parla di Accenture, probabilmente hanno prodotto il software buggato. Esatto. E quindi con probabilmente una serie di malware e backdoor fatte perché non ci avevano voglia. Sì, di io pensavo di debug accedi, tipica cosa da tipica cosa da azienda di consulenza che conosciamo. Ed è tutto appunto che rientra sempre in quel modus operandi del privatizzare, mandare a terze parti il più possibile. Rientra certo. sempre nello stesso gioco. E con questa storiella e con questa cosa del garante della privacy chiudiamo un attimo la parentesi italiana, chiudiamo, come dire, la parentesi di persone interne malevole e passiamo a quello che vi dicevamo prima, a quello che anche abbiamo sottolineato con le ultime cose che abbiamo detto, e che la superficie di attacco è immensa e quindi c'è, diciamo, anche un'ampia area di manovra per un eventuale attaccante esterno. Vorrei fare una piccola differenza quando parliamo di attaccanti esterni, perché spesso si parla di data breach, di hack molto grandi, di gente che ha hackerato, ma da hacking team a altri tipi di attacchi, o quando sono state rubate tutte le password da Dropbox. Spesso si pensa, o soprattutto i giornali esagerano, nel senso che pensano che ci voglia chissà quale squadra di persone, chissà quale finanziatore, chissà quale armamentario per hackerare qualcosa di grosso. In realtà hackerare qualcosa di grosso può farlo un quindicenne nella sua cantina e non è un'esagerazione. Quello che invece ci fa capire che c'è un attore statale, ovvero che c'è stato un governo, un servizio segreto, qualcuno dietro, non è il metodo di accesso, la falla o comunque come dire, l'hack in sé, ma sono gli strumenti che vengono utilizzati dopo, sono la conoscenza che emerge dei sistemi, un sacco di cose che dopo vedremo nel dettaglio. Tutto questo per ripartire dalla storiella più interessante, secondo me, di oggi, che inizia nel 2004. Nel 2004 subito sono le prime. Ci sono state le Olimpiadi estive ad Atene. Le prime Olimpiadi estive dopo l'11 settembre, quindi le prime dopo che gli Stati Uniti avevano espanso sia la loro capacità tecnologica che la loro diciamo potenza legale di come dire, di intercettazione. Nel 2004 si programmava di svolgere le Olimpiadi ad Atene. E cosa è successo? Che gli Stati Uniti hanno proposto al governo greco di aiutare nella prevenzione al terrorismo, che allora era sentito come adesso, ma come dire, era un'idea più fresca di adesso. E cosa succede? Che quindi l'NSA dice al governo greco che ha gli strumenti e le capacità per monitorare le chiamate o comunque le telecomunicazioni durante le Olimpiadi per trovare sospetti. Il governo greco accetta e quindi l'NSA manda nell'ambasciata americana materiale e persone per prepararsi a questo scopo. L'operatore di cui parliamo adesso, che probabilmente è uno dei principali in Grecia, è Vodafone. Cosa succede? L'NSA installa il suo equipaggiamento, installa i suoi moduli sull'MSC, ha, diciamo, praticamente la sua backdoor proprietaria scritta per l'MSC Ericsson. Tra l'altro, una piccola chicca per i tecnici: gli MSC Ericsson si programmano in Plex, e Plex è un linguaggio che poi è stato sostituito da Erlang, che è molto verboso e molto scomodo, è un incrocio tra tipo Erlang e Assembly. Scrivere una backdoor in questo linguaggio richiede una conoscenza molto specifica, richiede di avere un interprete Plex, quindi tendenzialmente di avere dell'equipaggiamento Ericsson, richiede di averlo studiato attentamente. Vi assicuro che nessuno bissa si studia attentamente il Plex, perché è una merda, nel senso, chi te lo fa fare? Non puoi usarlo da nessuna parte, è inutile. Serve proprio una conoscenza molto specifica per fare questa roba. E quindi l'NSA installa questa backdoor e inizia a intercettare durante le Olimpiadi. L'accordo ovviamente è che a fine Olimpiadi l'NSA tolga questa roba, impacchetti tutto quello che ha spedito l'ambasciata e se ne ritorni negli Stati Uniti. Cosa succede? Che tra l'altro va ricordato che durante le Olimpiadi un operatore di telecomunicazioni ha un grosso un grosso picco di utenza, quindi comunque devono espandere la rete, fare un botto di operazioni, perché deve essere garantita connettività a giornalisti, sportivi, a tutti quanti. Comunque finiscono le Olimpiadi, non ci sono attentati, che noi sappiamo non ne sono neanche stati sventati, proprio non ci sono stati piani, magari ci sono stati, li hanno sventati, sono stati secretati, ma diciamo non risulta, non c'è nessun indizio in quella direzione. Ma che succede? Che gli americani dicono di aver disattivato la loro backdoor, dicono di essersene andati, ma in realtà quando praticamente pensano che le acque si siano calmate, che quindi questa cosa sia, diciamo, siano meno allerta, i tecnici greci la riaccendono. Ma intanto vi mettiamo tra poco un pezzo e facciamo una pausetta, perché sono mezz'ora che parlo ininterrottamente e vi starete anche annoiando. E rieccoci qui, questo pezzo era Moderat, A New Error, e torniamo alla nostra storiella, che è ormai un po' che si sviluppa. Eravamo rimasti alla fine delle Olimpiadi e gli Stati Uniti, in particolare a una collaborazione tra l'NSA e la CIA, che dichiarano di aver spento i loro impianti per le intercettazioni. Cosa succede? In un giorno specifico, il 24 gennaio 2005, uno degli MSC di Vodafone Grecia inizia a mandare degli errori. Manda degli errori dicendo che alcuni messaggi non vengono recapitati al destinatario, che è difficile recapitare messaggi a numeri di altri operatori, e insomma che qualcosa non sta funzionando. Ovviamente questo è un disservizio enorme per un operatore, perché cioè la cosa che deve fare un operatore è girare, vabbè, adesso il traffico internet del 2005 meno, deve girare gli sms e le chiamate, quindi si impanicano, da soli non riescono a capire la causa di questo errore, quindi fanno un dump della memoria, ovviamente con strumenti proprietari, e lo mandano a Ericsson. Ericsson il 4 marzo, quindi avete voglia, dal 24 gennaio al 4 marzo, intanto probabilmente hanno restaurato l'MSC alle configurazioni di default, comunque avranno fatto un ripristino. Comunque Ericsson il 4 marzo risponde e dice che l'MSC non funzionava correttamente perché è stato installato del software non autorizzato. Questo software non autorizzato era molto difficile da rilevare, perché l'MSC è una di quelle cose che deve funzionare in continuazione. Non è che lo puoi riavviare quando fai un aggiornamento, nel senso non è Windows che fa gli aggiornamenti tutti i giorni, si riavvia e se tu non lo puoi usare mezz'ora a cazzi tuoi, è una roba che deve funzionare continuamente. Quindi diciamo nel loro progetto Ericsson aveva pensato di fare un sistema per cui il codice che gira nell'MSC, che si occupa dello switching, si occupa delle funzioni, potesse essere aggiornato dinamicamente senza riavviare. Quindi cosa succede? Che quando tu fai una patch, l'applichi, viene applicata in memoria e non c'è nessun tipo di persistenza sul disco. Quindi se poi tu fai un dump del disco, questa backdoor non la trovi. E questo già è un punto per i quali probabilmente i tecnici di Vodafone non avevano capito, diciamo, l'entità della situazione. Però cosa succede anche? Che il 4 marzo questo report lo riceve anche un tecnico, il cui nome adesso vi dico perché mi piace ricordarlo. Quando lo trovo ve lo comunico. Comunque questo tecnico si era forse anche reso conto prima ancora della dichiarazione di Ericsson e comunque abbiamo trovato il nome, si chiamava Kostas Tsalikidis. E ora vi chiederete perché si chiamava? Perché il 9 marzo, dopo che lui ha comunicato ai suoi superiori in Vodafone che c'è questa backdoor e che probabilmente, insomma, noi non sapremo mai cosa ha detto, però è facile, essendo stato lui stesso anche a programmare le operazioni durante le Olimpiadi, quindi, come dire, è facile che lui potesse sospettare chi aveva ceduto, chi era stato. Comunque comunica ai suoi superiori questa informazione e, coincidenza, dopo aver scritto alla ragazza che vuole licenziarsi, dopo che le sue dimissioni sono state rifiutate, dopo che appunto scrive la ragazza che vuole licenziarsi, che è questione di vita e di morte, muore, probabilmente era un indovino, muore e si suicida, si impicca nella casa dei suoi genitori. Questo la fa diventare la situazione molto più spy story di quello che sembrava, perché ovviamente gli Stati Uniti negano tutto, ufficialmente questa persona si è suicidata, Intanto le sfere alte di Vodafone dicono che la backdoor deve venire eliminata, e viene eliminata prima che tutte le prove forensi possano essere raccolte, tant'è che di questo si lamenterà poi anche il servizio segreto greco, dicendo nel momento in cui voi avete deciso di rimuoverla lì avete avvertito chi l'ha messa e ci avete reso molto più difficile risalire a lui, perché ovviamente quando tu sai di essere scoperto cosa fai? Cancelli e scappi. Se tu invece non lo sai, io posso contrattaccare in qualche modo, comunque posso provare a rintracciarti a mia volta. Quindi questa backdoor viene eliminata e insomma succede quello che viene chiamato Watergate della Grecia, comunque il più grosso scandalo delle comunicazioni della Grecia, perché alla fine con questa backdoor, mentre durante le Olimpiadi si pensava che sarebbero state intercettate un po' le comunicazioni tutte filtrate per terrorismo, non so ancora come, perché nel 2004 non è che abbiamo sto machine learning per capire le... quindi dubbia anche quell'operazione, ma tralasciamola. Vengono intercettati il primo ministro della Grecia, il sindaco di Atene, il ministro dell'economia, quasi tutti i membri del governo. Quindi cosa succede? Che gli Stati Uniti stanno intercettando un paese alleato, un membro della NATO e tanto altro. E questo fa incazzare la Grecia, fa incazzare gli altri membri della NATO, succedono un sacco di cose. E a loro volta gli Stati Uniti ovviamente come sempre dichiarano che o non sono responsabili o che non possono commentare sulla faccenda, anche se quando... è ironico perché quando viene chiesto a un ufficiale degli Stati Uniti ma che cosa mi puoi dire di questa faccenda, loro ti rispondono non posso commentare su questa faccenda, vuol dire che quella faccenda ha un fascicolo e quel fascicolo è segreto, se no ti direbbero, non lo so, qualcos'altro. Cioè è una risposta, come dire, che comunque fa intendere che su quella specifica faccenda gli hanno detto di commentare, magari non è un fascicolo, però come dire è arrivata un'istruzione precisa che di quello non si può parlare, quindi quello esiste. E in qualche modo... è ammesso, magari non è ammesso colpevolezza, però si sa che è successo, ecco. Cosa succede? Che niente, sostanzialmente la backdoor viene rimossa, lo scandalo viene un pochino, come dire, sotterrato, nel senso che non è che sia questa grande notizia nel resto del mondo e non è che ci sia purtroppo molto di follow up. Noi anche quando, come dire, succedono cose sul territorio che riguardano i servizi segreti, anche i servizi segreti stranieri, basta vedere il caso Abu Omar, magari poi si fa luce, si fa eccetera, ma ci vogliono anni, ci vogliono persone che collaborano, ci vogliono un sacco di cose che ovviamente in questa situazione non ci sono. Comunque la procura di Atene indaga sia sulla morte di questo tecnico sia sulla backdoor. Nella backdoor trova in particolare 14 numeri di telefono su cui venivano replicate le telefonate. Questi numeri di telefono come dire sono ovviamente intestati a persone fasulle, però questi numeri di telefono hanno i tabulati, come ce li hanno di tutti i numeri di telefono, e hanno anche alcune triangolazioni, o comunque hanno le informazioni su che, a che cella si sono collegati. Casualmente questi numeri di telefono si sono collegati tutti alla cella a cui si collega una persona normalmente, se nell'ambasciata degli Stati Uniti o nei suoi dintorni. Quindi, come dire, anche un pochino maldestri nella loro operazione, perché... è sospetto. Vero, anch'io. Non so cosa possa voler dire, però secondo me è un indizio. Quindi, nel 2007, e questo è per dirvi 3 anni di indagini per arrivare a questo punto, finalmente la procura di Atene riesce a identificare una persona precisa, che vorrei gentilmente nominare, perché secondo me va ricordato come... William George Basil, secondo me era importante dirlo, che c'è un soggetto definito colpevole, che era un ex dipendente dell'NSA ed era un diplomatico statunitense. Questa persona ovviamente al termine delle indagini aveva già detto tanti saluti alla Grecia e se ne era tornato agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ovviamente hanno ignorato qualsiasi richiesta della Grecia sull'estradizione, anche sul solo poter intervistare questo tizio, quindi possiamo proprio chiaramente dire che in tutto questo scandalo c'è pure morta una persona e l'hanno tutti fatta franca. Cioè mi sembra il... È un'ottima spy story, devo cioè, dire. Io devo dire, apprezzo che nel loro piccolo la procura di Atene sia riuscita a fare un'indagine tale da dare un volto a questo soggetto che sicuramente non ha operato da solo. Però è anche triste che, cioè, nonostante questo lavoro durato anni, come dire, non si sia neanche mai avuto un'intervista, un commento di questo tizio. Io non so neanche se sia ancora vivo o cosa faccia negli Stati Uniti, però è sparito. E niente. E questo, io ovviamente questa storia l'ho ridotta di molto, ci sono molti più intrighi politici, comunque dichiarazioni, perché comunque la Grecia poi ha fatto delle dichiarazioni ufficiali, anche altri paesi, e la cosa è un po' più complicata di così, anche su, ovviamente ho semplificato come funzionano gli MSC, come funzionano le cose. Ho semplificato un po' perché io ho una conoscenza limitata di questa roba, un po' per motivi di tempo. E questo è comunque uno dei casi che volevo citare in cui ci sono state le intercettazioni e non è stato né un dipendente né il governo, non è stata un'azione legale, ma c'è stato un attore esterno. Un attore esterno che è stato invitato inizialmente dal governo e che poi come dire, ha abusato della sua posizione. Ma se andiamo avanti, questo è solo uno dei tanti casi in cui gli Stati Uniti hanno provato a fare operazioni del genere. Prima di andare al 2013, vorrei passare dal 2012, in cui non so se... Ah no, stesso anno. Comunque, nel 2012 c'è stato un blackout di internet in Siria. Cosa vuol dire? Che probabilmente... Ovviamente abbiamo informazioni limitate, ma i maggiori centri di switching del traffico internet, quindi, come dire, in Italia abbiamo il MIX, che è il centro di switching a Milano, il Topix, che è il centro di switching a Torino, in Siria ci sarà stato il centro di switching principale del paese, nella città principale del paese, che gestiva il traffico del paese, qualcosa si è rotto. Si è rotto nel senso che tutto il paese è andato offline e all'epoca si erano dichiarati cyber, non cyber attacchi, però blackout, problemi di corrente, censura, avevano accusato il governo ha accusato i ribelli. Ad oggi, grazie a Edward Snowden, su cui bisognerebbe fare un altro episodio, non so se l'abbiamo fatto, comunque sappiamo che in realtà è successo perché l'NSA ha provato a deployare un loro malware nei core router del traffico. E probabilmente hanno fatto male i test, probabilmente il modello non era lo stesso, probabilmente qualcosa è andato storno e li ha rotti, cioè ha briccato i router di switching della hanno Siria. Confuso produzione e development, sempre fatto, anche loro magari hanno deployato l'alfa perché avevano fretta, purtroppo. E questo è un esempio in cui ovviamente si puntava, ormai nel 2012, quindi c'è cioè internet è già un'altra roba, si puntava al traffico internet e c'era un attore esterno. Sicuramente il governo siriano aveva la capacità di intercettare, registrare, tracciare le persone. Ma, come dire, questa capacità la voleva anche l'NSA e la voleva a un livello più alto, cioè più diretto, nel senso direttamente negli apparati di rete. E qui torniamo anche al fatto che, ovviamente, non è così improbabile che anche un quindicenne nella sua cantina riesca ad hackerare l'operatore della Siria, perché un operatore ha 1 milione di macchine, un sacco sono esposte su internet, poi probabilmente in Siria arriva anche equipaggiamento non di prima mano, perché ci sono embargo, tante cose, tanti problemi. Però poi un quindicenne nella sua cantina non è in grado di sviluppare un malware per un router Cisco e deployarlo in produzione sperando di non interrompere il traffico in tutti gli switch della Siria contemporaneamente. Cioè, come dire, qui si vede chiaramente lo zampino statale dalla scala dell'operazione, anche dall'allenamento che è richiesto, perché ovviamente tutti questi device li devi comprare, devi fare 1000 test, e avranno fatto 1000 test e comunque l'hanno rotto, quindi... così. E poi torniamo anche a Belgacom. Belgacom era praticamente la Telecom del Belgio. Cosa c'entra la Telecom del Belgio con questa nostra serie di storie? Nel 2012 un tecnico si accorge che qualcosa su un computer non va. All'inizio pensano che sia un virus generico, sai? E nella rete di un operatore di telecomunicazioni ci sono tante workstation, tante macchine Windows da cui le persone lavorano, leggono la posta, fanno le loro cose, rispondono alle mail, c'è cioè il customer service, ci sono mille operazioni che un dipendente di un'azienda così grande fa. E si accorgono che c'è un virus. Questo virus all'inizio pensano sia un malware generico. In realtà, facendo, diciamo, indagando, e meno male che non hanno solo installato una macchina, ma hanno indagando, scoprono che non è l'unica macchina infetta, ma nella loro rete ce ne sono più di 1700 infette. Questa macchina infetta ha un malware che non è un malware comune, non è il FlexiSpy di cui parlavamo prima, è un malware che nelle sue porzioni di codice ricorda un po' Stuxnet, ricorda una complessità molto elevata, che tendenzialmente un privato è difficile che faccia, perché che privato che hacker sia per profitto che per denaro investe 3 anni per sviluppare un tool di post-exploitation, buca, ruba i dati, vende, è contento, di sicuro non investe 3 anni della sua vita perché nessuno lo stipendia a fare un malware così sofisticato. Comunque lo trovano, mentre lo trovano purtroppo anche come dire, chi lo opera si accorge di essere stato scoperto, quindi inizia a cancellarlo e eliminare le tracce. Vengono tracciati i server di comando e controllo, i server di comando e controllo sono in un altro paese, fanno la solita operazione, vanno a chiedere a chi sono intestati i server, ovviamente le persone a cui sono intestati i server non esistono, che ovviamente non ci si aspetta niente di meno, persino io se avessi fatto questa operazione avrei intestato i server a gente inesistente, voglio dire. Sì, comunque, beh, abbastanza normale, non c'è nulla di stupefacente. È il percorso di indagine standard e alla fine, diciamo, la paternità di questo attacco, che comunque era di nuovo mirato a raggiungere i centri di switching sia delle comunicazioni che dell'internet in questo caso, è attribuibile al GCHQ. Il GCHQ è l'equivalente britannico dell'NSA. E quindi sostanzialmente questo attacco, lo sappiamo poi anche dai documenti che sono stati leakati da Edward Snowden, perché ricordiamo che Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Nuova Zelanda e Australia fanno un'alleanza che si chiama Five Eyes, che sono l'alleanza, diciamo, dei paesi anglofoni di origini simili, penso che derivi da questo, adesso non mi ricordo nello specifico perché sono alleati loro. Comunque una maggior parte dei documenti segretati vengono condivisi dall'intelligence dei vari paesi, quindi quando Edward Snowden ha pubblicato i dati dell'NSA, ne ha pubblicati anche una buona fetta del GCHQ. In questi documenti del GCHQ ci sono delle slide proprio specifiche che parlano di come questa operazione è stata fatta bene. C'è addirittura uno schema che io apprezzo del loro ufficio, che loro chiamano MyNOC. NOC sarebbe Network Operation Center, dove di solito un operatore di telecomunicazioni monitora gli switch, quindi i ping, la pen, le macchine, in cui ci sono le sedie, ci sono le postazioni, poi in ogni postazione c'è un colorino che indica di che operazione si occupava quella persona di sorvegliare. Quindi c'era un omino che si occupava di verificare che il malware in Belgacom tutti i giorni funzionasse bene, rispondesse ai comandi, inviasse i dati, di guardare i dati. E probabilmente lo stesso Mino che si è accorto che erano stati detectati e che quindi ha iniziato, ha avvertito, e qualcuno aveva iniziato la procedura di cancellazione. Però non so come dire, quando, se andrete poi a seguire i link, apritelo questo articolo e andatevi a vedere come questa cosa è organizzata in un modo enterprise, direi. Nel senso, fanno bene il loro lavoro. Comunque, di nuovo, qui lo scandalo c'è non solo perché l'azione è illegale, ma anche perché chi viene intercettato, di nuovo, è il primo ministro del Belgio, il ministro degli affari esteri, persone che in teoria sono alleate, perché il Regno Unito è nell'Unione Europea e il Belgio è nell'Unione Europea, quindi, diciamo, questa cosa è grave da un punto di vista legale, è grave per la nostra privacy, ma è grave anche da un punto di vista diplomatico. E di nuovo, viene chiesta di fare luce, vengono chieste informazioni, si prova a fare l'indagine, ma per fare l'indagine l'Europol non collabora perché ha paura di incidenti diplomatici, quindi si trova la polizia del Belgio da sola verso un paese che non vuole collaborare. Chissà cosa avrà mai uno da nascondere, un paese che non vuole collaborare. Per cui la conclusione è che di nuovo anche in questa indagine c'è un nulla di fatto. Il primo ministro del Belgio è arrabbiato, dichiara che saranno fatte cose, ma le cose non si possono fare perché è un paese alleato, non collabora, l'Unione Europea in questa situazione è rimasta più o meno neutrale e quindi è andata così. E di nuovo, hackerare Belgacom non è stato, magari hanno trovato un Tomcat, un JBoss, una qualsiasi macchina stupida esposta su internet, gli hanno bucato la rete, hanno fatto le classiche attività di PT, hanno bucato il domain controller, eccetera. Però poi, una volta fatto questo, che è quello che in realtà non serve essere un NSA per fare, cosa hanno fatto? Hanno impiantato un malware sofisticatissimo. E sofisticatissimo, tant'è che l'ha iniziato Foxit, che è una delle, diciamo, case che si occupa di reverse engineering di malware più, diciamo, più famose, comunque anche tra le più brave, anche più blasonate, e loro stessi hanno dichiarato che il lavoro di questo malware non l'ha fatto un russo di un forum di exploit, non l'ho fatto io che hacker dalla cantina, ma l'ho fatto qualcuno che aveva tempo, investimenti, risorse, il classico state actor / attore molto motivato. Purtroppo questa storia, di nuovo, ve l'ho riassunta tantissimo, se volete ve la potete approfondire, è già quasi un'ora che parlo, quindi insomma... No, ma vai, molto interessante, puoi continuare ancora almeno 8 minuti. Ahia, allora aspettate che cerco velocissimamente qualcosa da dire in questi 8 minuti. No, tutto questo si ricollega anche un pochino, poi qui non abbiamo parlato, però quello che... qui abbiamo parlato delle persone, di chi hackera dall'esterno, da un sacco di cose. C'è anche ancora un componente che può fare queste cose brutte e cattive. Chi è? e chi gli equipaggiamenti che vengono usati nei ripetitori e tutto li produce. Questa è una delle accuse che gli Stati Uniti muovono a Huawei. Gli Stati Uniti dicono che Huawei ha delle backdoor nei loro software. In realtà ci sono delle storie per cui nei centri di switching di internet è già successo che si trovassero delle backdoor, mi sembra in particolare in prodotti Alcatel, quindi neanche da dire prodotti cinesi. Adesso riandrebbe approfondito un attimo, ma se mi ricordo bene Alcatel aveva detto che li avevano hackerati e qualcuno aveva inserito la backdoor nel firmware, quindi a loro volta la superficie di attacco si è ampliata ancora, perché se io hackero Huawei, hackero uno sviluppatore, scrivo una backdoor nel loro software, poi loro pushano l'aggiornamento, la mia backdoor la mettono e non l'ha messa il governo, non l'ha messo un governo cattivo che ha hackerato l'operatore, non l'ha messa Huawei, ma l'ha messa un'altra persona ancora che ha deciso che attaccava Huawei. Che al mercato mio padre comprò, direi, a questo punto.